Sul meridiano di Rock FM sono le 7 spaccate. Negli studi di Via Locatelli 1, 20124 Milano, anche questo giovedì 4 di ottobre 2007, c'è l'Ariele qui nel buio di Rock FM, illuminato solo da un lampione crepuscolare. E da lui, il nostro regista di fiducia, Mister Spadino. Ci sarà Mister Trombetta, la Mucca Camilla, tutti i nostri amici, Roberto Friccantoni. Ah, che puntata, ragazzi. Sarà una grandissima puntata numero 24. E questa è la nostra sigla da contratto. Pane, burro e rock and roll. Inizia così la nostra colazione. Pane, burro e rock and roll. Tra cu tra cu tra cu tra. La tua colazione rock. Pane, burro e rock and roll. La migliore in circolazione. Yeah. It's very good indeed. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. No, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Eh sì, perché ci siamo noi fino alle 9 del mattino in diretta. Una Milano decisamente più cupa del solito quest'oggi, ci accoglie, forse anche piovigginante, qualche minuto fa no, adesso sì, forse più piovigginante forte, non riesco a intravedere, oh, io a quest'ora ho le visioni, cioè non vedo benissimo cosa succede là fuori, anche perché tutto è falsato dal nostro lampione crepuscolare, che tiene però, che intravedo dal primo messaggio di quest'oggi, che ci sono amici che hanno problemi con il lampione crepuscolare impazzito che si accende e si spegne. Ragazzi, vi siamo vicini, siamo in squadra con voi. Riempiremo queste due ore di buona musica, di ottima musica e di parecchie stupidate. Questa è la formula vincente delle nostre due ore mattutine dagli studi di Rock FM, che ormai si sono trasformati nella nostra seconda camera da letto, no? Dovremmo farci mettere, caro Spadino, un bel letto a castello. Tanto fin quando non arriva Frick, ci spariamo un pisolino. In attesa dell'Eurostar che ci trasporti il nostro rocker bolognese anche quest'oggi fino a Milano, io andrei a cominciare la puntata ufficialmente anche con la buona musica. E che musica! Musica maestro, direbbe qualcuno, no? I Queen! Ah. Another One Bite the Dust. Qualcuno sosteneva che ascoltandola al contrario ci sarebbe un messaggio subliminale. Ma dai, su. Non ci credo. Let's go! Let's go! He walks barely down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. chiusura con chitarrina funky, eh? Che gli ha preso Brian May? Another One by the Dust, Queen. Oh yeah. Chiude con 2 chili di riverbero sul rullante. Benvenuti alla nostra colazione, benvenuti alla nostra colazione. Vi ricordo le coordinate per interagire con noi, per portare un po' il sole anche a Rock FM. Così, non c'entrava niente, ma mi sembrava carino. Un numero di SMS 335-100-7777 attraverso il quale potrete commentare. Vedo questa mattina richiedere strombazzate di Mister Trombetta che servono sempre, far nascere scandali come ieri ha fatto un radioascoltatore. Vi ricordo che abbiamo chiuso la puntata di ieri gridando allo scandalo delle patenti davvero rocker truccate, che potete vedere già da ieri pomeriggio sul sito www.radiorockfm.com. insomma, potete fare un po' quello che vi pare e che vi piace. Ricordo anche la casella di posta elettronica, che come sempre risponde al mio nome, ovvero ariel@radiorockfm.com. Anche quest'oggi abbiamo qualche nuova rubrica. Ragazzi, è in discesa Pane, Burro e Rock'n'Roll, eh? Siamo pieni di nuove rubriche che proprio non sappiamo nemmeno più dove metterle da quando abbiamo aggiunto il nuovo stegista, staccanovista, impagabile, impagato. Qua le idee proprio ci escono dalle orecchie, quindi anche quest'oggi garantiamo la miglior colazione in circolazione. Ovviamente, come tutti i santi giorni, nella prima mezz'ora anche appuntamento con l'almanacco del giorno che fu. Che cosa è accaduto il 4 di ottobre? Che fa molto mattina, fa molto risveglio, almeno a noi fa questo effetto. Intanto R.A.M. Stand! Stand in the place where you live. Più in alto la tonalità, dicevo, eh? REM con la loro Stand alle 7 e 11 minuti primi. vi accompagniamo noi fino alle 9 di quest'oggi. È talmente scura quest'oggi Milano che secondo me il lampione crepuscolare ci accompagna fino alle 9 oggi. È la volta buona che scopriamo se è vero che è crepuscolare o no, perché io non ci credo ancora proprio fino in fondo. Solitamente le prime strombazzate le facciamo più avanti nel corso della puntata, ma quest'oggi vado al volo a salutare Andrea, il carissimo Andrea, che oggi ha un'udienza definitiva importante. Ah, caro Andrea, siamo in squadra con te e ovviamente anche con il buon Gianmarco Mazinga Z. Salutiamo anche Davide, che ha bisogno di un in bocca al lupo, perché oggi pomeriggio ha il terzo livello di colloquio di lavoro per una mega azienda. La miseria, Davide, cos'è il terzo livello di colloquio? A parte che non ne ho mai fatti tanti nella mia vita, ma al massimo ne ho fatto uno. In cosa ti stanno trasformando, Davide? Ma ti inseriscono anche dei microchip sotto pelle o è roba tranquilla? Perché ci preoccupiamo noi, Va bene, facci sapere se diventi capo dell'universo. Ricordati sempre che eravamo in squadra con te. Di nuovo Mattia da Genova, un quindicenne che compie gli anni proprio quest'oggi. Eccoci qua, Mattia. Si va a scuola, Mannaggia, Resisti, ne hai ancora un po' di anni da andare a scuola. Stai a 15, ancora un po' devi resistere. Tieni duro e intanto ascolta sempre Pane, Burro e Rock and Roll, che vedrai che... Detto tra me e te, se ascolti la radio e richiedi le strombazzate di Mister Trombetta, non c'è bisogno di studiare, hai capito? Basta due strombazzate, arrivi là, stai bello preciso. Ma il gruppo d'ascolto, punto, prima serie con Tergi Cristalli inchiodato e Vespone Neuro 4 che va come e quando vuole lui, non c'è più? Ragazzi, ve la suonate e ve la cantate da sola, capiamoci. I gruppi d'ascolto li fate, li disfate un po' come vi pare e piace. Fate voi. Embe, che c'è? Come embe che c'è? È giovedì. Mi stavo nascondendo dietro a un dito. Volete che questo giovedì ci dimentichiamo di giocare la tripla e diventare milionari? Ma va! C'è già là Carlo, tabaccheria, pronto! Mannaggia Carlo, stai preciso! Crunch of pain. The ice age is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going in. Engines stop running. But I have no fear. Cause London is drowning. I live by the river. To the invitation zone. Forget it, brother. You can go it alone. London calling. To the zombies of death. Quit holding out. Draw another breath. London calling. And I don't wanna shout, but while we were talking I saw you nodding out. London calling. See, we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming. The sun's zooming in. Engines stuck on him. The wheat is going thin. A nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning. I'm Il raggio di luce che entra nei nostri studi a portare buon umore, a portare allegria, a portare sottile saggezza. Roberto Fricantoni da Bologna. Grazie amici, grazie DJ Ariele, buona giornata a lei, a voi, a tutti che ci ascoltate, a tutti voi là fuori. Sa quest'oggi cosa dobbiamo assolutamente ricordare? Lei intende parlare dell'almanacco? Assolutamente sì. Allora, trattandosi di giovedì 4 ottobre, sì, io so che c'è una ricorrenza, esatto, importantissima, imprescindibile. Oggi partiamo dai santi, è San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Oh, che bella figura quella di San Francesco. Sì, eh? Sì, a parte tutto, veramente molto, cioè a parte tutto nel senso di... comunque uno la veda, veramente un grand'uomo. Non si inciampi in queste cose. No, era basso. San Francesco. No, era basso di statura, quasi quanto me, per dire, no? Penso 1,65, 1,68, ma un grande uomo. Del resto Napoleone, poi tutti bassi sono... Ma non occupiamoci di bassi, anzi, occupiamoci di un'altra... E di bassisti. Notizia legata al 4 d'ottobre. Risata obbligatoria, era un po' che non la facevamo. Era il 4 ottobre del 1883 quando avvenne la prima corsa del celebre, leggendario Orient Express. Il nome di un treno passeggeri a lunga distanza, messo in servizio dalle compagnie internazionali del Wagonlitz, da Parish Gate Est fino ad Istanbul. Che viaggi! Dalla gara dell'Est, mi raccomando, sì, se andate a quella dell'Ovest, non prendete il treno. Dalla gara dell'Est si arrivava ad Istanbul. Ha avuto un periodo di stop, ma attualmente è ancora in circolazione. L'Orient Express è diventato sinonimo di viaggi di lusso. Passiamo a occuparci dello spazio. Sì, e come al solito ricordiamo un primato russo, visto che gli americani hanno stravinto su tutto. No, hanno vinto sulla Luna. Sulla Luna per il momento. Beh, però prima sì, però, sì, gli stavano dietro i russi. Stavano, è vero, è vero. Sembrava. Era il 1957 e un minuscolo Fricantoni, probabilmente nella campagna bolognese, venne a sapere del lancio dello Sputnik. Sì, sembrava una gara alla pari quando nel 57 fu lanciato lo Sputnik, il primo satellite artificiale ad orbitare intorno alla Terra, ed era russo. Russo. L'accostamento è eccezionale, risata obbligatoria. Silent night, bring the evening. Permettetemi di dirlo, pane, burro, rock and roll, ed è subito amore. Love is on the way, Saigon Kicks. Che facevano l'assolino di chitarra sentitissimo, Lo senti da come attacca il suo l'assolo di chitarra, quello sentito, vero? Anche quest'oggi le tenebre perderanno contro la luce o saranno loro a governarci per tutto il giorno. Io non so come mai, ma quando inizia ad albeggiare, a uscire un po' la luce, mi stupisco sempre un po'. Sarà il miracolo della vita. Sta diventando un po' più chiaro. Più che altro mi preoccupo perché più diventa chiaro, più rischiamo di perdere il lampione, che sapete è un punto fermo per il nostro cervello labile. 3351007777. Vorrei regalarvi a tutti voi là fuori questa immagine, una sorta di fotografia di uno di voi là fuori, uno di voi che probabilmente ne rappresenta tanti altri, come spesso e volentieri accade. È questa la magia dell'interazione di pane, burro e rock and roll, no? Voi scrivete all'Ariele, ma in realtà scrive uno che possono essere tanti. Lui si firma il Fossa e scrive esattamente così: guardate, io odio ritirare la roba stesa, ma adoro farlo al mattino in mutande e con leggero headbanging accennato, salutando le ragazze dell'asilo di sotto. Ho bisogno di una strombazzata, perché magari oggi, boh, vabbè, tu falla lo stesso. Allora, questa vale per te e per tutti quelli che, boh, dai, tu falla lo stesso. Senti, lo confesso, anche a me piace ritirare i panni stesi in mutande. Senti, confesso che però io non abito sopra un asilo, bensì sotto, cioè in realtà in alto a destra, guardando dal mio cortiletto, in realtà c'è la pretura di Gallarate, quindi non mi va bene come va a te, caro Fossa. Però sono in squadra con te, sì, votiamo sì. Si deve ritirare la biancheria in mutande facendo il banging. Bravo Fossa, ma guarda te. Thank you.